Allora, un dibattito, almeno di 40 minuti, 50 minuti, 40 minuti, in modo che io concluderei un po' prima, ecco, verso le 6 potrebbe tutto essere finito almeno, se è prima meglio. Ma il dibattito deve essere fervoroso, se no io non accetto nessuno qui, sincero e chiaro, e convergente nella misura in cui ho detto prima, cioè partendo pure dalla divergenza. Chi si prenota? No, tu hai grattato la testa solo. C'è qualcuno che si prenota? Il professor Fercrois, padre Fercrois, sì. E anche tu? Oh, forse. Ecco, se posso agganciarmi a quello che ha detto Boff con qualche esemplificazione o applicazione forte di questa problematica della comunicazione di massa. Ricordo che Liechi alla visita del Papa l'anno scorso e al suo intervento citato per una parte esattamente, no? Sono stati in realtà, ecco, in una doppia luce interpretati. Perché? Perché da una parte qui c'era indubbiamente un'attesa che Papa Giovanni Paolo, presenziando a Trento e sapendo tutti l'esistenza di questo documento, di questo lavoro, ovvero sulle Lehr Verurteilungen, prendesse l'occasione per dire esplicitamente qualche cosa di più in merito. Questo non è accaduto e certamente non a caso è stato taciuto. Per l'altro verso invece è stata fatta quella dichiarazione positiva, vero, molto più universale, che è stata sentita. Mi sono trovato di fronte a cronisti e ad altri che chiedevano quale interpretazione io dessi a questo intervento. Da parte mia non ho potuto che tacere in questo caso, non c'è dubbio. No. Ecco, per altro verso mi ricordo che fui incaricato di ricavare dai testi del Concilio di Trento un testo da proclamare nella solenne veglia liturgica, nella liturgia della parola in quell'occasione. E vi dico la sincera verità che ho letto almeno 3 volte tutto intero, vero, il testo delle sessioni del Concilio di Trento e così via, sia degli anatemi sia dei capitoli dottrinali, e a dire il vero ho trovato molta difficoltà a poter estrarre un bel testo per questa occasione. Appena appena quello della 13ª sessione sull'Eucaristia, ma anche quello un po', ecco, purgato da cose che oggi verrebbero sentite decisamente come polemiche e polemicamente eccessive. Ecco, c'è tempo e tempo, circostanza e circostanza in cui un testo si legge. Ma adesso invece, se posso fare una domanda, con pieno apprezzamento, anzi godimento di quello che ho sentito, non ultimo dal padre Maranzini, ancora su questi vari strati della ricerca della verità viva e attuale, delle varie formulazioni, no? Revidibili o non revidibili, no? Il senso vero, la misura con cui coglie la sostanza della cosa. Ecco, il nostro discorso, anche nella terminologia, si è, giustamente, non lo voglio certo dire con biasimo, vero, mosso sul piano de veritate. E perciò si è parlato tutt'al più di eresia, no? Di anatemi, eccetera. Neanche una volta, se non mi sbaglio, ho sentito i termini che sono analogi, e forse per quanto riguarda non le Lehr Verurteilungen, ma per quanto riguarda la Kirchentrennung, gli altri termini tecnici che si chiamano scisma, che si chiamano apostasia. Se c'è qualcheduno che ecco, mi aiuta un po' a capire che cosa hanno a che fare questi termini con il ragionamento che abbiamo fatto, io gliela sarei grato. professor padre Ter Croix, poi il professor Prodi. Io vorrei solo aggiungere, se posso, alle 13 punti del numero 13, è un numero, un quattordicesimo, così non siamo più con il tredicesimi. No, no, è il tredicesimo quattordici. Bene, io mi domando se uno delle caratteri, e forse crea una difficoltà, non è allo stesso tempo quello che chiamerei sperimentale, esperienziale. Mi spiego. La comunicazione magisteriale, dunque di fede, di fatto deve essere diretto verso l'appropriazione. L'appropriazione di chi lo sente, di chi lo riceve. Dunque, non basta solo di dare una comunicazione di fede, chi crede deve, o il credente deve credere. E dunque questo è un'appropriazione del messaggio nella propria vita, deve condurre prima di tutto alla conversione nella fede, deve, e questo penso dovrebbe essere essenziale, anche se il magistero ne ha paura, dovrebbe essere essenziale nella comunicazione magisteriale, e che dovrebbe condurre alla personalizzazione di chi lo crede, del credente, dovrebbe condurre alla libertà della persona che crede, dovrebbe condurre, sono sempre più o meno le stesse cose, ma illuminato da un'altra, in un altro modo, alla coscienza di chi riceve, deve essere condotto alla maturazione di chi crede, e di fatto vediamo che una parte della comunicazione magisteriale apparentemente è piuttosto diretto verso la massificazione, di te, e questo si annuncia come esercizi spirituali. Io lo penso che, povero San Giorgio, non dico, grazie, che non ci sarà qualcuno che si converte a questa occasione e dunque che ne uscirà maturato, ma temo forte che alla fine si sarà stato un gran successo, perché invece di averne 5.000 c'erano 5.100, e dunque, ma questo è, al mio parere, non dico che non farà bene, perché dovrei dire che non farà bene, ma non mi sembra quella la strada di quell'approfondimento magisteriale che deve condurre alla maturazione. Forse parlo così perché sono gesuita e che Sant'Ignazio ci ha imparato gli esercizi spirituali di persona a persona, ma devo dire che credo più in quel modo di condurre la persona alla maturazione, alla fede, che di avere il numero più grande possibile di essere che devono ascoltare dei discorsi di persone porporati. Mi scuso. Grazie. Allora il professor Prodi, d'ora in poi lo chiameremo il fratello. Il fratello. Il fratello. Non nostro. Vieni, vieni, vieni Paolo, dai, vieni, vieni, dai. Fratello nostro in Cristo, volevamo dire, cosa avevi capito? Essere fratelli è anche pesante qualche volta, ma ad ogni modo noi siamo in tanti e quindi non possiamo sottrarci. No, il mio intervento vuole essere un ringraziamento per io a padre Maranzini in particolare, e poi stamattina ho sentito ovviamente Ruggeri, ma quel che volevo era proprio sottoporre a padre Maranzini questo, cioè oltre all'anatema noi abbiamo il problema della confessio fidei, insomma, che è l'altro risvolto, diciamo così. Detto semplicemente, il problema credo sia questo, cioè Trento non arriva alla formulazione di una professio fidei analoga alla professio augustana che era stata appunto compilata e strutturata nel 1530. Quindi noi abbiamo questa successione temporale. Abbiamo una prima professio fidei, diciamo in senso moderno, cioè come costruzione, diciamo, intellettuale. E io vorrei dire superamento del credo da questo punto di vista. Cioè, la sollecitazione a una incarnazione specifica nella cultura dell'epoca di una nuova espressione di fede avviene in ambito luterano, insomma, ecco, nel 1530. Il Concilio di Trento, a mio avviso, è questo che volevo sottoporre a Padre Maranzini, insomma, non affronta globalmente questo, non costruisce un altro edificio a questo, ma riafferma, sulla base appunto della tradizione, delle tradizioni quasi per manus tradite, una serie di affermazioni che contengono latini, eccetera. È solo Pio IV che nel 1564 appunto in qualche modo adotta, e questo è l'interrogativo che pongo, un approccio in qualche modo contrapposto ma simile a quello protestante. Cioè c'è una confessionalizzazione della Chiesa cattolica, per cui mentre nel Medioevo, diciamo così, l'anatema era riservato, con tutte le distinzioni che ha fatto Padre Maranzini, eccetera, ai devianti in qualche modo, a coloro che erano ritenuti appunto ribelli alla Chiesa cattolica, da quest'epoca in poi, diciamo, e io vedo Trento come appunto in mezzo alle due epoche, come un magma che si pone, ma che non è né dalla parte, diciamo così, medievale, dalla parte moderna, se vogliamo semplificare. Cioè Trento non si pone con una sua professio fidei, sarà il papato appunto che trae da Trento la professio e impone appunto accanto al credo, diciamo così, una come possiamo mettere, un'aggiunta, un supplemento, non so come dire, come si situa la professio fidei tridentina rispetto al credo negli anni successivi. Certo è che questo contribuisce a determinare nei secoli moderni questa nuova prospettiva di un credo che rimane come punto di riferimento, diciamo così, lontano, e di una professio fidei che invece entra nella vita degli individui, perché deve essere fatta all'atto dell'ordinazione, deve essere fatta all'atto del incominciare un insegnamento, deve essere fatta, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo una specie di sdoppiamento, insomma, in qualche modo, tra una appunto tra il credo come adesione appunto a una verità vista nel suo insieme e una confessione di fede che diventa sempre più appartenenza ad una chiesa confessionale. Quindi volevo chiedere se si poteva, in qualche modo, adesso che ci stiamo allontanando da questa età, che non è solo l'età della Controriforma, per questo lo troverei riduttivo, ecco, è proprio la fine dell'età confessionale, ecco, nel senso, ecco, forse possiamo in qualche modo recuperare di più, anche in, non l'ecumenismo per l'ecumenismo, ma il credo in cui inserire appunto questo cammino verso l'unione, insomma. Sì, questo problema che lui pone, se volevo intervenire soltanto per approfondirlo, è un problema che è stato già avvertito all'interno del cammino ecumenico. Vorrei dire che sia il tuo tema che questo hanno una loro storia, una preistoria. Voglio dire, dal 73, 77, 78 nel Consiglio Ecumenico delle Chiese si è posto il problema di un magistero autorevole e si sono fatte inchieste fra le varie chiese come provvedono appunto a quella autorevolezza di pronunciamenti che possono aiutare il cammino delle singole chiese in vista di una specie di esercizio concreto di magistero da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese, in quanto tale globalmente preso. Poi si è un po' arenato questo discorso, invece poi è maturato l'altro, di fare una nuova professione di fede. E lì in principio si è cominciato dicendo: è meglio che cominciamo con la professione della speranza, 77-78. E poi si è arrivati a elaborare un itinerario, preparare un itinerario per una professione di fede. Ma questa volta ecco la novità. Qualcuno forse premeva per fare una nuova, ma la scelta definitiva è stata, ma all'inizio ancora, non quindi definitiva in extremis, di fare un ripensamento, una reinterpretazione della professione primaria di fede, del simbolo niceno costantinopolitano, Ruggeri, neanche Calcedonia. Si è preso come prototipo il niceno costantinopolitano, quindi dichiaratamente è stato detto non una nuova professione di fede, e discutendo il problema è stato rilevato che le professioni di fede dopo il Cinquecento sono professioni di teologia confessionale, divisiva quindi. Allora ecco perché si è scelto la strada di riprendere l'antico, anche per influsso degli ortodossi, riprendere l'antico credo, quello niceno costantinopolitano, per riesprimerlo, reinterpretarlo e riesprimerlo. Ecco, direi che questa è un'indicazione che può aiutare l'importanza di questo problema. Non passare di nuovo a sempre nuove professioni di fede, perché più andiamo avanti, più saranno professioni di teologia. Se vogliamo, come diceva Rahner, già, torniamo alle formule brevi, quelle formule che riprendono ancora più schematicamente lo stesso credo niceno-costantinopolitano. Addirittura oggi non c'è bisogno di ulteriori passi teologici, ma c'è bisogno di una radicalizzazione dello stesso credo niceno-costantinopolitano. Scusate. Emanuele Kurz al Trento, e io non sono un esperto di questa materia, quindi la mia sarà un po' la domanda del profano. Ci sente? La domanda era questa, diciamo che il problema che vorrei porre, che non mi pare di aver sentito, è quello che viene di solito indicato con il nome generico di sette, cioè è un problema che ancora forse in Europa non è molto sentito, ma mi risulta che in America e in Africa le sette stanno un po' destrutturando sia il mondo cattolico che quello protestante. Una moltiplicazione di gruppi che a volte con venature apocalittiche, ma in generale mi par di capire poco inclini a un dialogo ecumenico, le nuove sette. Che hanno in genere hanno un certo successo. Probabilmente non solo perché, come si dice generalmente, rispondono a quel bisogno di rapporto umano, di comunione a livello stretto, basso, che è stato un po' disperso nelle nostre comunità ecclesiali, ma anche perché rispondono a un bisogno di certezze forti, di identità forti, che altrimenti si rischia di... che a volte così è una necessità che si sente. E quindi... un po' volevo appunto porre il problema, come porsi dal punto di vista del dialogo ecumenico di fronte a questi gruppi che ormai non sono più così marginali, anche da un punto di vista numerico. E un po' porre questo problema, ora facciamo una similitudine politica che mi rendo conto è un po' così campata in aria, però io ho l'impressione che nel momento in cui i due poli, diciamo cattolico e protestante, convergono verso il centro, ci sia sempre di più il desiderio da parte degli estremi di staccarsi. E siccome nell'umanità vige il sistema proporzionale, non il maggioritario, scusate la battuta, ma io ho un po' questa immagine, cioè un domani che ci fosse un concilio, poniamo, che dichiarasse l'unione, mutatis mutandis, fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Evangelica, io ho l'impressione che una grossa parte e della Chiesa Cattolica e della Chiesa Evangelica sceglierebbe di rifiutare le conclusioni di questo concilio, almeno nel momento in cui venissero fatti dei passi ulteriori verso l'unificazione fra cattolici e evangelici, E io penso che prenderanno fiato quei gruppi lefreviani, neo-vandeani, quello che è, che invece, magari rifacendosi proprio al Concilio di Trento, manifesterebbero la loro identità, il loro legame con la tradizione, eccetera, eccetera, proprio rifiutando questi passi di comunione. Quindi, diciamo, volevo un po' porre questo problema. Scisma, sette, eccetera. Grillo. Finora era un grillo silenzioso, adesso è un grillo. Due piccole questioni per Boff. Il tema comunicazione. Forte. Il tema comunicazione mette in relazione due termini che si sono usati abbondantemente, che fanno parte del cuore del tema che abbiamo analizzato. C'è un problema di comunicazione da parte della teologia e un problema di comunicazione da parte del magistero, non è la stessa cosa. E inoltre c'è anche un problema di comunicazione, abbiamo sentito, tra magistero e teologia. Primo problema, il fatto che abbiamo insistentemente auspicato che il magistero dia una sorta di veste obbligatoria a ciò che la teologia elabora, e che questo sia così difficile, dimostra che questo tipo di livello della comunicazione è già un livello difettoso, quantomeno. C'è poi un secondo problema. La teologia, indipendentemente da questa funzione di preparazione del magistero, diciamo così, ha una sua funzione. E tutti sanno quanto è traumatico leggere il giorno dopo le relazioni sui giornali di convegni come questo, dove non il magistero parla, ma la teologia si confronta e la comunicazione, non solo di mass media, è normalmente largamente deludente. Ecco, questo doppio livello, dunque, di comunicazione tra teologia e magistero e dello spazio costitutivamente riservato alla mediazione teologica per la comunicazione ecumenica, ecco, questi sono due livelli su cui mi piacerebbe sentire qualcosa. Grazie. Volete rispondere? C'è qualche altro? Passiamo un primo turno di risposte. Tu hai qualcosa da dire? Sì. La prima cosa che rispondo a professor Roger sull'aspetto che gli ha presentato, che cioè si è parlato di eresia, non si è parlato di scisma, non si è parlato di vita. Lei da storico, io non sono uno storico diretto, sa come il Concilio ha lavorato a principio, non si raccapezzavano se cominciare con una riforma di vita e riforma della Chiesa oppure con i decreti dottrinali. E quindi anche il suo amico Iodin, quando riporta una breve sintesi del discorso di Seripanto, mette in risalto quella che era la sua aspirazione, che si trattassero in maniera strettamente connessa, perché la fede è fede vissuta e non è soltanto fede concettualizzata. Lei conosce tutte le diatribe che ci sono state finché non si mettessero d'accordo se trattare, a parte i problemi della riforma in capite et membris e a parte quelli dottrinali. Lui era piuttosto che si unissero insieme, perché nella sua trasformazione vitale che ha avuto passando dalla visione neoplatonica a quello che si è chiamato poi il biblicismo, paolinismo nel senso forte e autentico della parola, voleva che si trattasse insieme, facendo in modo che la riforma non fosse puramente strutturale, non fosse soltanto un aspetto disciplinare. Purtroppo le cose sono andate diversamente e quindi si sono fatti i decreti dottrinali e i decreti di riformazione. Naturalmente nei decreti dottrinali c'è stata la prevalenza anche della scolastica, dobbiamo riconoscere. Per cui dicevo, anche se il Concilio, per decisione di Cervini, fin da principio ha detto che dovevano rimanere da parte tutte le strutturazioni strettamente di scuola, in pratica si risente l'influsso di quelle che sono determinate correnti teologiche. E quindi quello che è il decreto che viene considerato come un capolavoro anche teologico, qual è la sessione di giustificazione, oggi si veda anche quanta scolastica è entrata in quel decreto. Per esempio le varie prove, i vari schemi che aveva fatto Serivante proprio sulla giustificazione non sono state recepite nel Concilio, perché c'erano quelli che volevano assolutamente far penetrare tutta quella scuola otomistica o di altro genere o scotistica, in maniera tale che si è avuto dal punto di vista della teologia del tempo uno schema ben strutturato, ma certi aspetti vitali non sono stati messi sufficientemente in risalto. Quando poi all'esame del termine di eresia, di cose, io sono stato molto breve perché guardavo da una parte l'amico Boff che mi premeva, ma io avevo fatto una presentazione piuttosto dettagliata. Quindi non si parla nell'antichità, nell'anatema o anatema dello scisma, perché si considerava lo scisma piuttosto una questione puramente di disciplina, mentre l'eresis, che poi è lo stesso significato, significa divisione, no? È lo stesso nella radice, e divisione, hanno sempre considerato l'eresia la ribellione all'insegnamento abituale della Chiesa e a quello che era l'orientamento, e quindi anche legislativo, alcune volte, che la Chiesa dava ad salutem animarum, e questo c'è sempre, per la Chiesa universale. E mai hanno applicato i termini di eresis per quello che poteva essere una legge di carattere locale. Nella sottolineatura, che è molto importante per me, di quella della contumacia, della pertinacia, lì è entrato veramente l'anatema. Per cui, mentre per le altre mancanze mettevano o la scomunica maggiore o minore, e ho detto che formalmente la scomunica maggiore è terminata soltanto nel secolo scorso, hanno tolto la formula, l'anatema veniva dato unicamente quanto c'era questa pertinacia, quindi di carattere o dottrinale, ma non necessariamente di fede, perché non avevano quella formulazione di dogmatizzazione quale si è fatta nel secolo scorso con la neoscolastica. E quindi perciò per me è stato molto interessante, molto illuminante lo studio del padre Lang, che è molto più ampio e anche direi molto più illuminante di quello studio del Tridentino che ho fatto con padre Lenertz. L'ho avuto alla Gregoriana, proprio fece un corso di specializzazione su Tridentino. Lui era per me il chimico analitico del Tridentino, e ho citato quella notula tridentina da cui proprio il padre Lang ha preso lo spunto per quello studio. Non ho citato ampiamente, ce l'ho qui nella relazione quanto la manterrò nello stato definitivo, quello studio che ha fatto il padre Lang su un canone che è stato discusso a Bologna sulla benedizione o meno delle seconde nozze. È un canone di carattere strettamente liturgico, che non ha nessun valore dogmatico, ma si è discusso tanto se bisognava farlo con l'anatema, se bisognava farlo come eresia, o perché si poteva passare su, perché non trattavano della natura sacramentale del matrimonio, ma soltanto della benedizione per chi legittimamente sposava la seconda volta. E ci sa proprio la frase che non ho potuto leggere per mancanza di tempo, si è quelli che sostengono questo, sostengono una posizione strettamente radicale, perché la Chiesa proibiva per quel periodo la benedizione della sposa e della sposa che passavano a seconda nozze legittime. Perciò è molto, molto contingente l'aspetto. Io sono, per quanto riguarda l'apostasia, distinta dall'eresia, io ho citato, ma senza portare i testi, il canone del codice del 1917 e del codice 1983, in cui non parlano di scisma, ma parlano di eresia. E quindi il canone del 1917, 1325-2, è colui che dopo aver ricevuto il battesimo, conservando il nome di cristiano, con pertinacia nega o pone in dubbio una verità di fede da credersi con fede divina e cattolica. Qui abbiamo proprio già la formulazione, direi, del periodo neoscolastico. Il codice dell'83 riprende totalmente il contenuto dell'altro codice e fa la differenza dicendo che colui eretico, chi mette in dubbio o nega una verità, come ho detto prima, invece apostasia è il ripudio totale della fede cristiana. Come scisma, il rifiuto della sottomissione al sommo pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Ora, questa è una precisazione troppo recente. Invece, anticamente, erano molto più, direi, più miste la cosa. Per cui non possiamo noi applicare questa terminologia, questa concettualizzazione così precisa, proiettandola o nel Tridentino o addirittura nel secolo posteriore. La sintesi che ho fatto, la lettura della sintesi, erano 5 pagine, io ho detto in 3 o 4 minuti. Per quanto riguarda connessione, fede e vita, io sono pienamente d'accordo. Anzi, nel discorso, nel commento che fa il suo amico Iadin al discorso di Seripant, dice forse Seripant, dando quei consigli che poi non sono stati seguiti, ha dato un orientamento che poteva servire proprio per quella connessione fra fede e vita, rispondendo a quella tendenza anche vitale di Lutero, ma poi dopo, per necessità, lui ha ceduto a far fare la discussione per avere l'unanimità di assenso. In questo modo, in qualche modo, ha potuto anche contribuire involontariamente a quello che si facesse una precisazione dottrinale e si staccasse la precisazione vitale della Reformazione. Questo è il dato che per quanto mi consta della storia. Per quanto riguarda il professor Prodi, io sono d'accordo. Lei conosce meglio di me il Tridentino perché è storico, quindi il Tridentino è un concilio, è un pluriconcilio. I 18 anni che è durato, si è avuto non solo un cambiamento di papi, non solo un cambiamento di buona parte dell'episcopato e quindi anche un po' la mentalità che c'era, ma hanno voluto ribattere e precisare quelle unglerheiten, quelle verità che erano emesse non in chiara precisazione. Adesso dovremmo poi vedere punto per punto fino a che, se erano veramente a conoscenza della esatta formulazione, se appartiene a Lutero, se appartiene a Melantone, eccetera. Loro hanno fatto delle sintesi su cui noi non dobbiamo oggi inferire perché non avevano i mezzi di trasmissione o di registrazione di cui parlava l'amico Boff. Quindi il Concilio ha precisato quello che è la realtà, i 7 sacramenti, praticamente quello su quello si è fermato, e anche sui 7 sacramenti non ha detto tutto. Una visione organica non ce l'ha data. E credo che non poteva riuscirci neppure perché noi sappiamo poi la conclusione del concilio, come è avvenuta tragicamente, diremmo così, qui a Trento, con la morte di Gonzaga, la morte di Seripanto, con le disunioni che c'erano, col pericolo che morisse il Papa, hanno dovuto un po' arrabattare, questo si può dire anche, gli ultimi documenti, per cui la professione di fede, che potesse essere una sintesi della fede in quel momento, sia pure in uno stato così confusionario come si era creato nel Cinquecento, che adesso noi conosciamo forse un po' meglio attraverso tutte le pubblicazioni, e anche di fronte al protestantesimo non ce l'ha data. Comincia poi allora quello che potrebbe essere considerato il programma di sintetizzazione, e quindi io sono d'accordo con lei quando ha richiamato la fede di Pio IV, formulata dopo la professio fide, perché precedentemente loro hanno fatto la professione nicena quando hanno cominciato il concilio. Lì hanno aggiunto quegli elementi che erano stati precisati, e quindi i sette sacramenti, eccetera. Quando poi è venuta, e anche l'obbedienza al Papa, lì è stato sottolineato, col Concilio Vaticano I si è immessi in quella stessa professione tridentina che noi professori abbiamo ripetuto fino a pochi anni fa, no? Con il giuramento antimodernista aggiunto dopo, è stata un po' quello che è un elemento del tridentinismo, dobbiamo dirlo quella parola, anche se a me non piace, cioè questo volere chiudere in una formulazione quella che era la dottrina tridentina e farla più o meno come professione di fede. Nello stesso tempo anche una sintesi che è stato il Catechismo Sat Barbos. Anche lì è stato elaborato, iniziato appena appena come idea, e qui è venuto proprio già all'inizio del concilio, quando si voleva un manuale per i preti e per i parroci. Il manuale è venuto, il Methodus lo chiamavano, nel primo periodo. Poi hanno dovuto rimandare, costituirono una commissione di cui era membro anche Seripante, ma pochi mesi prima della morte, per cui avevano fatto anche una distribuzione dei vari versetti che ognuno doveva trattare del credo, per il futuro catechismo. Il catechismo poi è stato fatto nel periodo di Pio V, però qui bisogna riconoscere che lo schema che è stato seguito nel catechismo di Barocos è lo schema della predicazione di Seripanto a Salerno quando era vescovo, e ormai è pubblicato su quel il credo, i sacramenti, il Pater Noster. E in queste tre parti lui ci ha messo anche la morale. Però dobbiamo dire che risente anche un po' di quella che era l'impostazione del catechismo di Lutero. E qui è un dato positivo. Per cui questo schema, che poi è stato ripreso ultimamente, non sapevano più come raccapezzare, quando hanno voluto fare il catechismo della Chiesa Universale, dopo tanti tentativi hanno fatto il ripiegamento su quello stesso schema del Concilio di Trento e del Catechismo Sat Barbos, il nuovo catechismo, che abbia tenuto conto o no della parte ecumenica, e lì ci hanno messo male, se è un centone o una raccolta è discutibile. Un altro elemento vorrei mettere in risalto, forse in quel momento non sapevano come fare. E anche il giuramento che è stato fatto dopo e imposto nelle varie circostanze era un giuramento di fedeltà riferendosi prevalentemente a Tridentino. Dopo il nuovo giuramento e la nuova sintesi è molto più breve, quella che abbiamo avuto recentemente dalla Congregazione della Fede. Sintesi di una formula non l'abbiamo, Tridentino non ce l'ha data, e quindi bisogna vederla attraverso tutto l'insieme. Per quanto riguarda poi anche le sette di oggi, e qui gli ecumenisti distingueranno nettamente fra le chiese o comunità ecclesiale e le sette che pullulano, in cui l'ispirazione cristiana fino a che punto è presa, il fondamentalismo biblico, eccetera, e qui bisognerebbe poi fare tutto un discorso a parte di cui forse Boff potrà parlare. Non so se ho risposto. Grazie. Tu? Velocissimo, velocissimo, sì, tutti sì. Dicono allora, rapido. Professor padre Faircroyce, sono talmente d'accordo con quello che lei ha detto, che il discorso da dove ho messo comunionale, il discorso poi comincia così. Nella comunicazione non si tratta solo di possedere un comune linguaggio, ma di partecipare ad una comune esperienza di vita, a comuni indirizzi, valori, eccetera. Non so, e là sotto dialogo dico che bisogna recuperare le acquisizioni del moderno nel senso del singolo, nonostante poi mi preoccupi di dire che bisogna valorizzare la dimensione sociale contro l'individualismo eccetera, ma in quella dimensione del moderno c'è proprio l'uomo adulto, l'uomo responsabile, quindi contro l'infantilismo eccetera eccetera, quindi sono perfettamente d'accordo, grazie di averle sottolineato, io l'avevo saltato proprio per la fretta. Per quello che riguarda scisma, eresia, anche apostasia, eccetera, Monsignor Sartori mi diceva di ricordare che Congar sottolinea all'inizio la unità di scisma e eresia, non solo la sottolinea Congar, ma credo che sia abbastanza evidente anche nella Bibbia. Guardate che la divisione è talmente legata a una stagione e a una definizione giuridica che subito dopo averla fatta ci si preoccupava invece che in fondo questa distinzione non esisteva, perché dicevano chi è disubbidienza al Papa è anche eretico, quindi proprio ci assicuravano che sul piano reale quello dell'apostasia, poi ancora una volta distinzione giuridica molto precisa nei codici, li ha citati, e lì si tratta davvero di ripensare in maniera radicale, ma non fermandosi alla parte negativa. Il ripensamento, a mio giudizio, in qualche punto l'ho tentato, è proprio parte proprio dalla ricomprensione di quello che è il messaggio positivo rispetto al quale, o meglio, la comunione effettiva rispetto al quale eresia, scisma, apostasia si pongono come infrazioni. Il termine eresia è prossimo proprio a setta nel Nuovo Testamento. Ecco, io non entro nel discorso, che indubbiamente è un discorso molto importante, voglio sottolineare soltanto una cosa, che è chiaro. Quando l'ecumenismo avvenisse soprattutto a livello di grandi movimenti giuridici, legali, strutturali, istituzionali, eccetera, eccetera, quei fenomeni lì sarebbero non soltanto insistenti, pericolosi, ma anche da prendersi in serissima considerazione, direi positiva, perché potrebbero rappresentare persino una sorta di sottolineatura di quell'identità che minaccia nella visione, nel movimento strutturale, istituzionale di perdersi. Quando l'ecumenismo sia davvero la verità della Chiesa, allora bisogna anche fare il conto con queste, ma l'ecumenismo risponde a chi rifiuta il dialogo, a chi rifiuta l'incontro, risponde proprio offrendo le condizioni più aperte del dialogo, più cordiale, più capace di riconoscimento dell'altro, ma non di cedimento a quelle che in fondo non si possono negare se non come negazione della comunione, come istanza ultima. Questo mi pare molto importante. Aggiungerei una piccola cosa. Il professor Prodi non ha ricordato una cosa che io ho imparato da lui, che di recente è stato reintrodotto il giuramento. Sarebbe interessante proprio quelle osservazioni riprenderle anche come critica a queste nostre aperture, cioè vedere un po', dobbiamo fare i conti anche con quella notazione che lui in altre occasioni aveva fatto. Per quello che riguarda invece le domande di Grillo, è ovvio, io ho preso soltanto di un discorso, un pezzetto, una dimensione, eccetera, tutto quello che ho detto credo che possa già offrire qualcosa anche in direzione del rapporto tra teologia e mass media. È chiaro che il discorso interno tra magistero e teologia, che non è totalmente fuori da quello dei mass media, però ha delle connotazioni speciali e che vanno anche appunto riconosciute proprio nella specificità di quell'aspetto. Vorrei soltanto indicare che nel rapporto del magistero e della teologia con i mass media bisognerebbe introdurre tutta una serie di elementi che io non ho neppure nominato. Ieri ho sentito una bella frase: oggi con i mass media non esistono più i movimenti di pensiero, bensì soltanto le bande di pensiero. No? Ebbene, questo è un problema realissimo. L'altro problema realissimo è questo, che con i mass media non esistono più i discorsi lunghi, cari amici. No? E i discorsi lunghi, esistono soltanto i discorsi brevi, anzi i motti, anzi le parole. Le parole, anzi l'immagine. Ebbene, quando questo sia davvero la figura della comunicazione, come dobbiamo tradurre in questo mondo il nostro messaggio cristiano? Guardate che non possiamo deprecarlo, ma non possiamo tradire la missione di dire il Vangelo in tutti i mondi, anche in quello dove si parla soltanto con immagini. E tutto più ritorneremo alla Bibbia figurata, eccetera. Ecco, questo mi pare che sia un tema molto importante che non avevo neppure toccato, l'approfitto per dire che l'avevo anche presente, ma appunto è comunque nel discorso anche quando non lo presenta io. Ho finito, grazie. Grazie. Allora, ho visto che qualche pecora dispersa già andava fuori, allora anticipo...